il coordinamento Lesbiche Romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute alla 189esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito in onda tutti i martedì su Radio Onda Rossa dalle 17 in poi e noi appunto andiamo in onda dalle 21 alle 22. Oggi un po' in ritardo. Siamo in ritardo. La voce che sentite della mia deliziosa compagna di viaggio, e quindi sto parlando della bellissima e bravissima Rosina. Grazie, mi commuovi nel senso della commozione e cerebrale. Presenta pure me però. Ma certamente la voce che ha introdotto la trasmissione è quella di Annalisa, the best. Come no. Allora, come sapete potete ascoltarci anche tramite internet collegandovi sul nostro sito che è sempre www.clrbp.it che prima o poi rinnoveremo. Cliccando sull'icona sulla radio e poi cliccando sull'icona in diretta. Allora, se volete parlare con noi in trasmissione potete farlo ora, per circa un'ora, allo 06 491750 oppure potete mandarci un'email con comodo al nostro indirizzo che è contatti@clrbp.it. Per le più timide abbiamo portato il cellulare, quindi se volete potete mandarci un sms al cellulare del coordinamento Lesbiche Romane, cioè al 338 41 46 682. Di che parliamo stasera, Rosina? Stasera parleremo purtroppo di un argomento non bellissimo, no. Ma ci corre, nel senso che, come abbiamo visto, quest'ultimo scorcio dell'estate è stato caratterizzato da una serie di bruttissime notizie sempre più frequenti che riguardano crimini in genere e stupri commessi ai danni delle donne, quindi sarà una trasmissione non esattamente leggera, ci dispiace dover introdurre questo argomento, ma ci sembrava opportuno. Quindi, visto che ci accusano, ci accusano di silenzio, parlano solo di cose un po' leggere. Noi parliamo di cose leggere, ma non sempre, alle volte parliamo anche di cose più pesanti. Certamente ci piacerebbe parlare solo di cose leggere, ma non è possibile. E quindi, che dire, a partire dall'omicidio di Ina, che era una giovane musulmana che viveva qui in Italia e appunto era colpevole di voler vivere come una occidentale e che è stata assassinata dal padre. Quindi, partendo dal caso di Ina, passando per i casi di omicidi e violenze sessuali avvenuti a Brescia, a Bologna, oppure all'emblematico suicidio di Kaur, che era una donna indiana che si è tolta la vita per non essere costretta a tornare in India dall'anziano marito che la famiglia le aveva imposto, e possiamo dire che l'accanimento contro la libertà, l'autodeterminazione, il corpo delle donne si è dimostrato appunto molto molto devastante. E direi che ha scoperto le diverse facce, tutte ugualmente feroci, del patriarcato. La stampa ha dato grande risalto a questi eventi terribili, però direi che il dato sensibile rispetto agli ultimi avvenimenti è stato invece l'ingresso di una ulteriore, così fra virgolette, categoria di stupro che appunto la stampa erroneamente ha definito stupro etnico, poiché è stato commesso da uomini appartenenti ad altre culture e quindi ad altre etnie diverse da quelle occidentali. È proprio questo lo stupro che ha fatto più notizia, come dice la Melandri su Liberazione. Questo è lo stupro che è diventato una questione istituzionale e politica, sollevando appunto ondate di disappunto a destra e a sinistra nella cosiddetta società civile e rinfocolando un dibattito già serrato sulla sempre più difficile convivenza tra diverse culture. Franca Fossati su Europa del 6 settembre ha scritto che è indubbia la contraddizione e il conflitto tra culture e tradizioni non solo religiose che legittimano la violenza contro le donne e negano al sesso femminile la libertà di scelta e società come la nostra che le donne hanno già in parte trasformato iscrivendo a fatica la libertà femminile nella legge e nel costume. Ma possiamo parlare come se fossimo in un mondo di innocenti invaso dai barbari? Chi è innocente? Chi? Si chiede appunto la Fossati, e noi diciamo che appunto nessuno è innocente. Per quello che ci riguarda non esiste alcuna differenza fra stupri commessi da extracomunitari o cittadini italiani. Sono le due facce della stessa medaglia, e non vogliamo quindi dare sponda a chi crede che abusare delle cosiddette donne degli altri sia più grave che abusare delle proprie. Se si intende parlare di stupro etnico, possiamo trovarci d'accordo soltanto se partiamo dal presupposto che uomini e donne appartengono non già a due generi differenti, ma a due differenti etnie. Solo in questo caso l'utilizzo del termine può essere accolto e giustificato. E lo hanno spiegato molto bene alcune di noi in una lettera che è stata inviata a Repubblica agli inizi del mese di settembre, in risposta ad un articolo del giornalista Merlo, che tra l'altro si interrogava sul perché mai le femministe fossero tanto latitanti in questa situazione, perché mai tendessero a giustificare con motivazioni di carattere antropologico gli stupri commessi ai danni di italiane da parte di maschi extracomunitari. Il livore nei confronti delle femministe, responsabili di silenzio omertoso, quando non di correità, si commenta da solo. Tant'è che da 30 anni le femministe parlano, e da 30 anni puntualmente le loro parole vengono cassate. Non ultima, la lettera alla Repubblica, che come è stata spedita così è stata cestinata, senza trovare spazio nemmeno in un trafiletto della rubrica delle lettere. Non ultima, dicevo, perché anche il documento che la Casa Internazionale delle Donne ha inviato al medesimo giornale, facendo propria la prima lettera scritta da alcune componenti del coordinamento lesbiche romane e quindi ribadendone la significatività, è stato semplicemente censurato, anche il messaggio della Casa Internazionale, così come avviene per quasi tutti i temi riguardanti le donne e il femminismo. Naturalmente Repubblica è stata in buona compagnia, perché nessuno dei quotidiani a cui le lettere sono state inviate per conoscenza ha pensato bene di pubblicarle. Evidentemente questa è la nuova linea editoriale della stampa cosiddetta progressista. Le donne della casa si sono riunite in assemblea a settembre, hanno fatto diversi incontri proprio per cercare di capire come dare risposta a questo fenomeno sempre più dilagante degli stupri e della violenza in genere sulle donne. Ci sarà molto presto un forum, mi sembra il 28 di questo mese, magari più tardi vi daremo la informazione giusta. Adesso direi possiamo magari mandare un po' di musica, e poi vi daremo lettura di una serie di comunicati e diciamo di interventi che sono stati fatti dalle donne della Casa Internazionale, anche dalla nostra Monica, il 14 settembre a Piazza del Popolo, quando c'è stato una iniziativa contro le discriminazioni, c'è stato l'European Track, scusate la pronuncia, e le donne della casa hanno parlato molte donne della casa, le donne migranti, ha parlato anche donne che non erano della casa, come il vicequestore Diana Manti sulla questione della violenza sessuale e non solo, sulla questione delle donne immigrate. Abbiamo parlato anche noi del CLR, e ha parlato Edda Billi dell'Associazione Femminista Federativa Internazionale. E direi di andare con un po' di musica. Sì, partiamo con la musica. Birden bire yağmur yağmur. Thank you. come abbiamo detto, le donne parlano, discutono, comunicano, lo fanno nei tempi e nei modi che riconoscono giusti e significativi per i loro vissuti e la loro esperienza, quindi hanno poco da dire questi che si interrogano su dove siano le femministe quando accadono fatti di questo genere. Le femministe ci sono, si fanno sentire quando anche la stampa dà loro la possibilità di essere più visibili, ma comunque le donne discutono fra donne e lavorano fra donne rispetto a queste tematiche. E questo appunto è stato il motivo per cui, quando la Casa Internazionale è stata invitata a partecipare al villaggio antidiscriminazioni a Roma il 14 settembre in Piazza del Popolo, come dicevamo prima, abbiamo ritenuto importante portare anche il nostro contributo, e l'insieme degli interventi, il dibattito delle donne della Casa Internazionale era intitolato Le radici sessiste dell'Europa, parafrasando le radici cristiane naturalmente, e il sottotitolo era Dalla cultura dello stupro alla libertà femminile. Vi proponiamo, gli interventi sono stati molti e sono stati molto significativi, vi proponiamo però quelli che per noi sono più interessanti, cioè quello di Edda Billi, presidente onoraria dell'AFFI, e a seguire quello di Monica del CLR. E siccome divento ogni giorno di più trasparente, ogni giorno di più invisibile, mi chiedo cosa fare per volare più in alto, almeno quel tanto da non essere contaminate dalle lordure di questa società monosessuata, sessista e criminale. Lo so, come dice Bianca Pomeranzi, che al soddisfacimento del bisogno di libertà del vivere e del convivere, quale possibilità per sconfiggere i fondamentalismi, bisognerà mettere al lavoro le esperienze acquisite dalle donne per liberarci dal dominio patriarcale. Ma cosa fare di fronte ai troppi merli che fischiano ingiurie e falsità contro di noi, dimenticando quale dura lotta abbiamo fatto per ottenere che la violenza sessista fosse, come è, violenza contro la persona e non contro la morale, come per secoli è stato, relegandoci a meri oggetti per i piaceri criminali dei tanti merli che pontificano sconsideratamente. Lo so, come dice Lea Melandri, che il boia domestico non ha patria, visto che gli stupri e le violenze in famiglia sono all'ordine del giorno, e che se di violenza bisogna parlare, questa è sessista e non razzista, come troppi vorrebbero che fosse. Questi sciagurati nati di donna sono tanti, troppi, li mettiamo al mondo noi, e non so per quale misteriosa e sporca ragione tentino di distruggerci. Ma detto questo, cosa fare per farci risentire, per uscire dal silenzio in cui stiamo ritornando, per tentare almeno di esistere intere, senza mediazioni ipocrite più o meno istituzionali, tristissimi approcci di ministre e sindache che ignorano la nostra esistenza, che perpetuano l'andazzo patriarcale? Volare alto significa prenderci per mano, uscire dalle monadi in cui ci siamo rinchiuse, riprendere una comunicazione vera, fattiva, viva. Significa non delegare nulla a nessuno, a nessuna, ripartire da noi e ricucire i rapporti sbrindellati, fare dei nostri corpi violentati fisicamente e psicologicamente dei baluardi contro l'infamia che ben definisce tutto il patriarcato, che non ha frontiere e che non ha colori. I patriarchi si somigliano tutti e tutti, ma proprio tutti, sono misogini e criminali. Significa volare in alto, non accettare più compromessi dei vari pari opportunismi, riprendere la parola, riprenderci i corpi e uscire dai troppi convegni spesso fini a se stessi, e soprattutto anche questi ignorati e messi sotto silenzio dalla comunicazione che si perde in servizi demenziali e offensivi. Cosa fare contro un sistema che ci è nemico e che, come dice Lucilla, ci ha dichiarato guerra, se non prendere atto e decidere di passare al contrattacco? Gli stupri non si contano più. Ora anche le lesbiche, in quanto tali, sono prese di mira. Mi sembra cresciuta questa antica offensiva persino dai tempi del primo femminismo, e con troppe donne a difenderli, stampelle del patriarcato, a volte quasi più feroci dei figli e mariti che proteggono. È dura, lo so, ma non possiamo solo subire, bisognerà pure trovare le forme di risposta che non siano soltanto quelle di difesa o di croce rossine pietose. Io non ne posso più. E voi? Bello. E questa è una domanda che noi vi rimandiamo, insomma, anche a voi. Noi come EDDA non ne possiamo più, speriamo che si possa lavorare insieme per cercare di, appunto, dare una risposta a questa situazione intollerabile, sempre più pericolosa, sempre più dannosa per l'esistenza fisica e per la sanità psicologica e morale di tutte le donne. Quando si leggono queste cose poi mi viene sempre in mente il perché noi proseguiamo insistentemente a essere separatiste. Certamente, questo è anche uno dei motivi, sì, che ci spinge in questa decisione, in questa direzione, in questa politica un po' datata, come si dice in giro. Magari fosse datata. Ok, vi propongo un pezzo a questo punto di Cesaria Evora. Come già detto, anche il CLR è intervenuto alla manifestazione di Piazza del Popolo con un documento che Monica ha presentato alle donne presenti e che appunto vi leggeremo. Vorrei iniziare ringraziando tutte le donne che sono intervenute prima di me e che hanno messo in comune con noi le loro esperienze e i loro vissuti. Ma un ringraziamento particolare vorrei rivolgere ad EDDA Billy per la sua forza, che vorrei fosse la nostra forza, e per la sua rabbia, che è sicuramente anche la nostra rabbia. non ricorderò, perché è già stato fatto, l'episodio dell'omissione da parte di Repubblica della pubblicazione della lettera di risposta agli interventi dell'opinionista Francesco Merlo. Vorrei però sottolineare che da più di 30 anni che la stampa censura ogni intervento femminista, nonostante più di una volta illustri esponenti di quel mondo non si siano risparmiati di affermare che sono le donne e le femministe a tacere. Noi vorremmo ricordare al contrario che è dalle donne e dalla lotta delle donne che è scaturito quel movimento di opposizione che ha reso possibile, per esempio, proprio la legge contro la violenza sessuale, che, non dimentichiamolo, solo fino a poco tempo fa era un reato esclusivamente contro la morale, oppure l'opposizione contro la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita e così via. E vorremmo anche ricordare quanto possono essere considerati stupri di Stato certe sentenze della Cassazione, come quella secondo la quale se si indossano dei jeans non si può subire violenza, o quella che considera meno stuprata una donna se al momento della violenza non è vergine, anche se è minorenne. Di fronte a questo, l'unica soluzione che ci viene prospettata dall'opinione pubblica, dai mass media, dalla società, dal patriarcato, è una sorta di decalogo di comportamenti. Per esempio, non indossare la minigonna, non uscire da casa in certe ore, non guardare le persone dritti negli occhi, come ho sentito dire personalmente durante una trasmissione televisiva a larga diffusione, l'Italia sul 2, esattamente l'11 settembre del 2006, tra le ore 14:30 e le ore 15. Comportamenti che, lasciatecelo dire, invece che prevenire il rischio di essere stuprate, rappresentano una forte limitazione alle libertà individuali, che naturalmente si impone solo alle donne. Oggi siamo qui a parlare di discriminazioni multiple. Come lesbiche noi subiamo almeno una duplice discriminazione, in quanto donne e in quanto lesbiche. Una discriminazione che ci impone quotidianamente di piegarci e di condividere una eterosessualità obbligatoria. Un modello patriarcale che spesso entra profondamente dentro di noi e ci condiziona senza che noi ce ne rendiamo consapevolmente conto. Lo dimostra per esempio anche un episodio recente come quello della ragazza aggredita dalle sue amiche perché troppo bella e in quanto tale minacciosa per le altre. Ma va detto che anche nel subire uno stupro, l'essere lesbica rappresenta un rischio ulteriore e un aggravante. Sta a dimostrarlo, per esempio, un altro recente episodio, quello della donna lesbica di Torre del Lago, Viareggio, Lucca, aggredita proprio in quanto lesbica. Ecco perché ancora una volta la discriminazione ci sembra doppia, perché subiamo uno stupro come costrizione all'eterosessualità e subiamo quindi la condizione di tutte le donne, e perché spesso il maschio usa la violenza sessuale come metodo di cura del lesbismo, quindi per costringere la donna all'eterosessualità. Come possiamo fare? Cosa possiamo fare? Noi crediamo che un vero cambiamento nei comportamenti, nelle mentalità, nelle forme del pensiero si possa avere soltanto con una profonda modificazione culturale che passi innanzitutto attraverso il modo e i modi con cui la cultura stessa si trasmette, attraverso il linguaggio per esempio, attraverso la formazione e soprattutto attraverso la relazione con le altre. Come abbiamo detto nell'introduzione del convegno Il soggetto lesbica, sovvertire il pensiero egemone per una riscrittura del simbolico, che si è tenuto a maggio del 2005 al Buon Pastore, una soluzione possibile passa per noi nel riconoscere le nostre molteplici specificità, le nostre complessità, le nostre esistenze, esperienze, vissuti, estrinsecazioni di vite, attraverso la forza dell'autorappresentazione. Noi crediamo che questo processo, quello di riconoscere le nostre soggettività multiple, passi attraverso la relazione tra donne. Del potere dirompente di questa pratica ha parlato Adrienne Rich, riconoscendo gli attributi fondamentali, quali la resistenza, la solidarietà, l'interiorizzazione di individualità femminili. In altre parole, il cosiddetto continuum lesbico, intendendo per esso tutte quelle esperienze vissute collettivamente ed individualmente, che indicano che le donne scelgono tra di loro rapporti privilegiati. E questa cosa Adrienne Rich l'ha scritta nel saggio Eterosessualità obbligatoria ed esistenza lesbica. Anche noi sperimentiamo questa pratica quotidianamente, partendo dal confronto fra pari. Mettiamo cioè in campo sapienze soggettive, ma all'interno di una identità comune, per delineare un quadro condiviso ma mobile dei nostri vissuti. È un'esperienza che viene agita all'interno di gruppi o di comunità che spesso condividono le modalità di azione o una comunanza di intenti e desideri, che però può essere esportata verso altri ambiti. È il caso del lavoro che ad esempio noi del CLR abbiamo condiviso con un gruppo di donne appartenenti ad una cultura altra, le donne africane di Nodi.

questa canzone mi fa venire in mente quello che è successo sabato, cioè a un certo punto le donne si sono messe a cantare questi vecchi slogan, no? Nonostante fossero assolutamente datati, la notte ci piace, vogliamo uscire in pace, ci piace anche il giorno, levatevi di torno, insomma tutte queste cose che mi fanno pensare come purtroppo in 30 anni pochissime cose siano cambiate, anzi forse praticamente nulla, e quindi il fatto che ci siano queste giganti che ci portano sulle spalle e che insomma che ci hanno accompagnato in questo cammino e che noi possiamo ancora attingere a questa sapienza, a questa a questo modo di vedere le cose, mi fa molto piacere. Da una parte però mi rende anche un po' triste, nel senso che forse riusciamo a produrre poco pensiero originale, però ci proviamo, insomma, è un modo anche questo di anche il fatto di stare qui, continuare a discutere di certi temi, cercare di trovare una comunanza, di fare rete fra donne, mi fa ben sperare, in qualche modo mi fa molto ben sperare anche il fatto che fossero presenti molte giovani a questo sit-in che appunto si è tenuto sabato scorso alla Piazza del Pantheon, a cui erano presenti le donne della casa e anche il coordinamento lesbiche romane sta sempre in mezzo. Sì. Ho visto la foto, era veramente bella. Hai visto la nostra foto con le fiaccole? Vabbè, sei stata assente giustificata, eravamo bellissime, anche il nostro striscione era bellissimo e sì, si vedeva benissimo. Bello arancione. Comunque. Allora, tra l'altro ci è arrivato il mese scorso anche il comunicato della LAI, Lesbiche Antifasciste Italiane, che abbiamo trovato molto interessante. La LAI, vi spiego, è una lista partitica di discussione, confronto e informazione di lesbiche che, mentre si riconoscono nel principio etico che ogni diversità è un valore e pertanto deve essere rispettosa civiltà, si dichiarano antifasciste, antirazziste, laiche, femministe e pacifiste. Non è poco. Non è poco. Il comunicato appunto riguardava lo stupro della ragazza, sì, a Torre del Lago. Quest'estate, sì, in un posto che era assolutamente riservato, no, alla comunità GLBT. Omosessuale, sì, e che invece è stato teatro appunto di questo stupro violentissimo ai danni di questa donna, e con la motivazione appunto che lei era una lesbica e quindi sarebbe, sì, toccato anche a lei, quindi questo rende questa violenza già di per sé orribile e feroce, la rende, diciamo, un delitto politico, direi, ancora più inquietante. E io vi do il sito della LAI, che è LAI 4 LES, sarebbe LAI 4 LES, chiocciola googlegroups.com, e vi do anche la mail dell'amministratrice, che è Luisa Raineri, che è sabilow@virgilio.it. Per avere il documento, il comunicato che hanno fatto, potete scrivere a noi, vi ricordo il nostro indirizzo email, che è contatti@clrbp.it, e vi ricordo anche il nostro cellulare, che è sempre acceso. Abbiamo ricevuto un sms carinissimo, come sempre, dalla Sicilia, che io amo, si sa, e in particolare da Catania, da Luisa Tura, che salutiamo con un bacione, che ci segue. Luisa e Vanessa. E Vanessa, sì. Vanessa, perfetto. Altro? Niente, fra poco passiamo alla sigla degli appuntamenti. Noi abbiamo un'agenda ricca di appuntamenti. Ricchissima di appuntamenti. Passeremo, sì, ancora musica. Intanto io direi di concludere questa parte con un pezzo che va sempre bene, che è di Aretha Franklin, che è Think, spero di averlo. Esatto. Come farli bene? Pensate un po'. Come dice mia musa, che è la capa. Spero di indovinare il numero del brano, perché intanto che chiacchieravo non l'ho manco puntato. Let's go back, let's go back. Yeah, I didn't even know you came to no, scusa, brava, mi sono un po' esaltata. Si è esaltata. Ritorniamo serie. Scusa. Ritorniamo serie, direi che possiamo, prima di chiudere questa prima parte della trasmissione, leggere un comunicato che ci è arrivato il 12 ottobre dall'Udi Nazionale di Via dell'Arco di Parma di Roma, e appunto chiudiamo la prima sezione della trasmissione con questo comunicato. Sì, allora Ludi scrive: sappiamo da tempo immemorabile che la violenza non è il frutto dei guasti della società. I soprusi e i maltrattamenti fino alla morte sono il tormento continuo a cui le donne sono sottoposte per controllarne il corpo e moderarle. Qualche volta non è necessario passare ai fatti, basta la paura della violenza. Ci sono stati anni in cui noi donne eravamo colpevoli degli stupri che subivamo, perché i nostri corpi, per il solo fatto di esistere, erano responsabili delle sollecitazioni a cui i maschi erano sottoposti. C'è voluta tanta fatica per non viverci come vittime e c'è voluto tanto coraggio per imparare a raccontare e, con il sostegno reciproco, trasformarci in testimoni. Con il femminismo e l'autocoscienza abbiamo imparato ad avere confidenza con il nostro corpo, cercato di essere responsabili della sua integrità e inviolabilità, ma forse la memoria di tutto questo si è persa. Ed è diventato necessario parlare con le più giovani perché sappiano che non esiste il mostro, esiste il vicino di casa, il compagno di scuola, il parente prossimo. Spesso le più giovani, proprio le più esposte, si sottraggono al confronto con le altre per paura di essere ricacciate nella miseria del genere, perché si illudono di essere quelle che hanno risolto il rapporto con l'altro. Salvo sperimentare poi che la libertà non migliora automaticamente i rapporti tra i sessi, semmai li rende ancora più conflittuali. La legge che abbiamo conquistato è solo uno strumento per la nostra salvaguardia. Oggi noi donne dell'Udi intendiamo chiamare le istituzioni di questo paese alle loro responsabilità, che non riguardano solo l'applicazione della legge, ma anche le azioni politiche con cui hanno favorito oppure ostacolato la costruzione di rapporti civili tra i generi. Tale civiltà non è data in natura e quindi ci aspettiamo azioni concrete che vadano oltre il generico sdegno. La civiltà comincia dalle parole, perché anche il linguaggio è sessuato, e noi chiamiamo la violenza sessuata e non più sessuale, per segnalare l'azione brutale di un genere sull'altro, e chiamiamo femminicidio la morte violenta di tante donne a causa del dominio estremo di un uomo su di una donna. Chiamarlo omicidio è un modo per camuffare le statistiche e far scomparire un fenomeno che è la causa prima di morte per le donne in Occidente e nel mondo. La violenza sulle donne è anche una questione mondiale, come sempre stato. Oggi però siamo sommersi di notizie, flussi migratori ci obbligano alla convivenza e sappiamo, con dati alla mano, che in ogni angolo della terra il genere maschile ha messo in atto tutte le storture e le torture possibili sulle donne, pur di sottrarsi a un rapporto reale. Chiamano culture le diverse facce che il patriarcato assume per imporsi e chiamano famiglia la sua struttura primaria, quella in cui si regolano i rapporti tra i sessi e si controllano le donne e i bambini. Perciò non sarà dalla tanto proclamata salvaguardia delle culture e delle famiglie che le donne trarranno vantaggio, quanto dallo scardinamento di un ordine sociale e politico, dove c'è uno che pensa, parla, decide, annullando violentemente l'altra. Noi siamo contemporanee alle donne che abita l'altra parte del mondo e alle donne che dall'altra parte del mondo sono venute a vivere e a lavorare nel nostro paese. Questo tempo è quanto abbiamo in comune per individuare strategie e per abitare liberamente il mondo. È bello pure questo documento, no? Assolutamente condivisibile. Questa nuova parola, femminicidio. Sì, proprio su questo torneremo nelle trasmissioni successive, perché c'è un dibattito piuttosto approfondito su questo tema. E ci piace molto appunto il fatto di chiamare le cose con il loro nome, e cioè gli omicidi sono una cosa, i femminicidi sono un'altra. E io vorrei anche ringraziare una ascoltatrice che ci ha inviato il suo contributo dicendoci che non è chiudendosi in un gruppo settario che si evita di perpetuare certe dinamiche relazionali, perché siamo tutte figlie di mamma e di papà. Io ringrazio questa ascoltatrice, che tra l'altro non conosco, però insomma, mi permetto di dissentire. Io non so bene, ora ovviamente un SMS è parco di parole, per cui non so bene a cosa faccia riferimento, forse al fatto che abbiamo parlato di separatismo. Sì. Per noi il separatismo è la relazione fra donne e il non accesso al maschile. Questo non significa che siamo fuori dal mondo, significa semplicemente che interpretiamo le nostre vite e che ci relazioniamo parliamo principalmente fra donne. Comunque tutti i contributi, tutti gli apporti sono i benvenuti, quindi ringrazio davvero Patti. Se Patti è a Roma, io non so da dove ci ascolta. Noi ci riuniamo il giovedì al Buon Pastore, alla Casa Internazionale delle Donne, al Centro Femminista Separatista, quindi siamo disposte a discutere delle nostre posizioni senza alcun problema. Mi sorprende, questa è un'opinione assolutamente personale, che in questo periodo dove praticamente adesso si dà risalto a quelli che sono gli stupri, come li definiscono, etnici, ma in realtà se uno apre il giornale tutti i giorni vede nei trafiletti storie di violenza domestica, certo, di qualunque tipo, certo, e che non ci sia la stessa rabbia nelle donne che sentiamo noi. Certo, o forse c'è ma non viene veicolata, io non lo so, insomma, il dibattito è aperto, noi siamo disponibili a parlare e siamo disponibili al confronto di qualunque tipo, io credo, insomma, magari sì. Parlo a titolo personale, ma forse interpreto anche la posizione del gruppo. E dunque a questo punto io direi, sì, che abbiamo fatto una panoramica, purtroppo il tempo è poco e quindi abbiamo fatto una panoramica abbastanza rapida, però adesso manderemo come di consueto la nostra sigla finale, ma non andate via, rimanete ancora con noi, perché partiamo con gli appuntamenti. Ci sono degli appuntamenti interessanti e quindi vai con la sigla e ci rivediamo fra un minuto, ci risentiamo fra un minuto. Sì, poi per il prossimo martedì noi andremo in replica, martedì 24, però probabilmente il quarto d'ora lo faremo sempre in diretta, saremo sempre presenti, quindi vi invitiamo comunque a intervenire sia su questo argomento, a segnalarci altre iniziative che sapete in Italia e a Roma in particolare. E, sì, partiamo con gli appuntamenti. Gli appuntamenti. Eccoci qua, allora di nuovo siamo alla 189esima trasmissione di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Sono ancora io, Annalisa, in compagnia di Rosina. Vi diamo gli appuntamenti che vanno da ottobre a novembre e anche oltre, perché vi parleremo di una nostra importante iniziativa che sta partendo in collaborazione con Pina Nuzzo. Partiamo proprio da quella, io direi. Partiamo proprio da quella, naturalmente. Vuoi partire tu? Vado io? Vai tu. Allora, stiamo organizzando un ciclo di incontri appunto con Pina Nuzzo per vedere in maniera diversa quelle che sono le opere d'arte, diversamente da quello che ci è stato sempre insegnato e da come siamo condizionati a vedere le opere d'arte. Noi infatti ci siamo chieste come guardare un'opera d'arte, come ci colpisce un'immagine, cosa filtra il nostro sguardo. Quanto della cultura patriarcale, ritorniamo sull'argomento, dominante, orientata verso questi meccanismi di riproduzione del potere abbiamo introiettato. Queste sono le domande che ci siamo poste e che collettivamente come gruppo, insieme a Pina Nuzzo, che è una pittrice che da anni è impegnata nella politica delle donne e che generosamente condividerà con noi il proprio sapere. E quindi ci saranno questi 6 incontri organizzati presso di noi al Centro Femminista Separatista, presso la Casa Internazionale delle Donne, e il titolo del ciclo degli incontri è proprio La donna spettatrice dell'arte. Non so se abbiamo tempo di leggere anche quello che da cui è partito Pina Nuzzo per ecco, Pina Nuzzo infatti scrive che lei è partita sono partita dalla mia esperienza di pittrice per riflettere sulla donna come spettatrice. Nel corso degli anni mi sono fatta molte domande su quello che guardavo e sul suo significato. Infine mi sono imposta di uscire dal mutismo in cui regolarmente sprofondavo e che era determinato dal fatto che tra me e l'opera si inserivano tutte le informazioni e le nozioni di cui sono in possesso e che mi imponevano un modo precostituito di guardare e di sentire. Quello che alla fine ho trovato insopportabile era, ed è, la pretesa di assegnare alle opere un linguaggio asessuato che parlerebbe indifferentemente agli uomini e alle donne. Così come trovo intollerabile la diffusa concezione che l'artista, ovviamente maschio, in quanto tale assumerebbe in sé anche il femminile. Questo sarebbe addirittura un requisito fondamentale per l'identità dell'artista. Con l'ardire che mi veniva dalla pratica politica, dove il partire da sé fa agio su tutto, ho deciso di ascoltarmi e di fronte all'opera d'arte ho cominciato a pormi come una spettatrice sessuata. Ho potuto così leggere la grandezza di un artista di cui non ho voluto mettere in discussione il giudizio che ne dà la critica, ma capire di quali privilegi hanno goduto gli uomini nella costruzione della storia dell'arte, primo fra tutti quello di usare il mondo come oggetto di rappresentazione e di farlo legittimati da una genealogia. Rispondendo al desiderio, peraltro abbastanza diffuso, espressomi dalle donne del CLR, propongo un ciclo di incontri per donne che vogliono condividere questa ricerca con l'unico intento di operare uno spostamento su noi stesse come fruitrici dell'arte e per uscire dal precostituito. Questo non vuol dire che alla fine degli incontri si diventa critiche d'arte o artiste, ma che si acquista una maggiore consapevolezza di se stesse e del significato che le immagini hanno per il genere femminile. Rifarò il cammino che ho intrapreso per mia necessità e metterò a disposizione il materiale di studio accumulato in questi anni, opere famose di uomini e di donne, esempi di arte cosiddetta figurativa e anche alcuni testi critici, soprattutto di donne, naturalmente, che hanno confermato il mio punto di vista. I sei incontri rimandano a passaggi a mio giudizio essenziali per operare uno spostamento del punto di vista. Noi ci ha intrigato moltissimo questo ciclo di incontri che ci ha proposto Pina Nuzzo, abbiamo accettato questo spunto, anzi l'abbiamo fatto nostro, e vi diciamo che il corso, il ciclo di incontri comincerà il 30 novembre con la donna musa ispiratrice e spettatrice femminile. Poi ce ne sarà un altro, saranno fatti di giovedì il 14 dicembre con la modella, bambina, adulta e prostituta. Ci sarà una visita collettiva, una mostra, tutte insieme andremo. L'11 gennaio poi ci sarà da modella artista, il 25 gennaio si parlerà di autoritratto, l'8 febbraio i segni, la rappresentazione e il corpo, i segni, la rappresentazione e i corpi, e per concludere il 22 febbraio considerazioni collettive. Vi diciamo subito che il costo di questo ciclo di incontri è soltanto per coprire le spese che dobbiamo appunto sostenere, fotocopie, spese di materiale, l'affitto della sala e quant'altro, e quindi è prevista un'iscrizione di 60 euro, e siccome è per sole donne e soprattutto in numero limitato, chi volesse può iscriversi o mandare una mail al nostro indirizzo, e qui tocca ridirlo, che è contatti@clrbp.it. Speriamo che questa iniziativa vi interessi, a noi ci ha intrigato tantissimo e vi aspettiamo. Certo, vi aspettiamo copiose e copione, come esatto. Si dice. Allora, è arrivato un altro SMS, in questo senso ringraziamo anche Monica da Prato, che a cui invece il separatismo evidentemente piace, perché lei dice: viva il separatismo, sembra in atto una guerra di genere, e poi ci fa i complimenti per la trasmissione, ci abbraccia, abbracciamo anche lei, grazie, grazie a Monica di Prato. Allora andiamo avanti con gli appuntamenti, come in questi giorni si sta svolgendo una manifestazione di laicità e libertà a Verona, organizzata da Facciamo Breccia e da vari gruppi che vi aderiscono, fra cui il Circolo Pink di Verona, laica. E autodeterminazione, laicità, libertà a Verona dal 30 settembre al 21 ottobre del 2006. Leggiamo il brevissimo comunicato. La Chiesa Cattolica colonizza. Nel nostro mondo, segnato da diseguaglianze, crisi sociali e guerre, le gerarchie vaticane insistono a proclamarsi uniche depositarie di presunti valori etici e morali universali. Condizionano la sfera pubblica e pretendono di determinare processi politici internazionali dettando il lessico di un codice etico integralista. Pretendono di disciplinare attraverso il governo sul corpo e sulla sessualità le scelte e le forme di vita di tutte e di tutti. Stanche e stanchi della condiscendenza di partiti e mezzi di informazione, memori delle responsabilità presenti e passate della Chiesa, dall'appoggio alle dittature, il boicottaggio della prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, all'omofobia dei suoi portavoce, indisposte e indisposti a subire passivamente l'ennesimo sperpero di risorse pubbliche per la realizzazione del decennale della CEI a Verona, altre ed altri prendono la parola. Quindi cittadine e cittadini che lavorano, studiano, sono precari e precarie, lesbiche, trans, donne, gay, etero, promuovono laica. Una rassegna critica di riflessione, dibattito, incontro per riaffermare l'esistenza, l'importanza e la ricchezza di una società laica, plurale nei comportamenti e nelle scelte, aperta e paritaria nel dialogo con l'altra e l'altro, libera di desiderare e di sperimentare. Quindi chi si trovasse a Verona in questi giorni può informarsi. Non si sbagliasse che va al CEI. Non andasse al CEI, dove ci sono i simpatici Eminenza e varie. Però noi dunque non vi possiamo leggere il programma perché è lunghissimo. Magari ecco, vi diciamo soltanto che giovedì, cioè dopodomani, dalle 18 ci sarà il Ratzinga Day, che ci piace, a Piazza Isolo, a Verona appunto, ci sarà una processione, la manifestazione per le vie di Verona, con partenza da Piazza Santa Toscana, organizzata dal coordinamento nazionale Facciamo Breccia. E vi diamo il sito a cui potete rivolgervi per avere le informazioni, ed è www.circolopink.it/no-vat.htm. Sì. Io passerei un brano musicale, poi concluderei con un'altra, certo, iniziativa prima dei salutini. E avete ancora qualche minuto, se volete scriverci ancora al 338-41-46-682. E avrei scelto, facci sentire, Deliziaci, Deliziaci. Siamo alla musica italiana. Deliziaci. Temo di Alba Argentina. Ah, va bene, ci piace assai. Se guarderai nel tuo cielo di Alba Argentina e la sua intensità, cadrai sopra un velo che spezza il profondo e si staglia a metà dell'anima, dell'anima che avvolge, protegge chi vuole sapere. Non può accedere a un foglio di carta velina che scrive di te la tua età, di te che sei il vento che passa gridando la sua libertà. abbiamo veramente siamo stati invasi dalle compagne del martedì. Siamo molto contenti di questa presenza femminile. Sì. ci separiamo fra di noi. Allora, direi che siamo veramente giunti in chiusura, quindi vi diamo soltanto l'ultimo appuntamento. Si tratta del secondo congresso internazionale di femminismo islamico, che si terrà a Barcellona il 3, il 4 e il 5 di novembre, quindi chi di voi fosse là, beata lei, potrà appunto seguire questo congresso. Per avere informazioni potete visitare il sito www.feminismeislamic.org/eng/index.htm. Se riuscite a trovarlo, fateci sapere com'è, perché l'indirizzo è veramente complicato. A questo punto ci tocca andare, perché ci stanno facendo dei segnacci dalla regia, come si dice. Dunque, bene, veramente siamo in chiusura. Siamo tristi che ce ne dobbiamo andare. Siamo tristi che ce ne dobbiamo andare. Sì. E vabbè, salutiamo tutte quelle che ci hanno scritto. Salutiamo quelle che ci hanno ascoltato senza scrivere. Sì. Salutiamo quelle che verranno al nostro ciclo di incontri con Pina Nuzzo, che abbiamo detto partirà il 30 novembre, la donna spettatrice dell'arte. Anche le compagne qui della radio verranno in gruppo, le vedo, sono già tutte quante pronte, addirittura c'è qualcuna che vola verso l'appuntamento. Benissimo, ci risentiamo prima che finisca a tare la luce e vino, come si dice. Pensiamo martedì prossimo, con la stessa calamità, perché sarà appunto una trasmissione in replica. E dedichiamo quest'ultima canzone, brindiamo a tutte le donne, questo cocktail d'amore. E poi la sigla finale. Esatto. Non è così importante, crollo solamente se un boom d'amante. Stai con me, con me, con me. Io voglio un incontro felice ed osservare tutto ciò. Con me, con me.